siamo così cauti, no? Identità come combinatore di vari tratti di identità, come ricordava prima Adelzhabar, no? Ciò che ci definisce sono i tratti più eminentemente personali che non cessano per questo di essere sociali e siamo definiti dall'età, dalla generazione, dal genere, dalla specie umana, eccetera, eccetera, fino alle differenze all'identità geoambientali, socio-economiche, di ruolo, politiche, ideologiche, linguistiche, religiose e via dicendo. E però ognuno di noi è tante cose insieme. Combinatoria vuol dire questo. Allora, Rosy Braidotti e altre studiose hanno inventato un termine che è la ricapitolazione d'identità. Lo spiego, è un po' difficile, ma potremmo usare un termine più diffuso nella musica e cultura giovanile, la hit parade dei tratti d'identità. Diciamo che ci sono delle identità, come dire, un po' più povere di tratti e altre un po' più ricche. Faccio un esempio che viene da un grande umorista ebreo-rumeno, poi passato negli Stati Uniti, Saul Steinberg, che è stato anche in Italia, tra l'altro, il disegnatore Steinberg, il quale negli anni 50 faceva proprio una vignetta in cui presentava con la scala dell'età della vita la carriera di una donna, una delle poche aspiranti donne in carriera degli anni 50 negli Stati Uniti, non erano molte, e di un maschio in carriera, coetanei. Allora, si vedeva il maschio salire più rapidamente per i vari gradini ascendenti della scala fino ad arrivare a una specie di mega scrivania di fantoziana memoria di dirigente e poi, ahimè, l'età della pensione, crollo verticale. Questa persona, passando alla pensione, perde identità. Una persona che ha centrato, come non dico che succede a tutti i maschi, ma spesso succede forse più ai maschi che alle femmine, l'identità molto di più sul lavoro, nel momento in cui viene a mancare il lavoro, che può essere, ahimè, la disoccupazione, ma può anche essere la pensione in età pensionabile, tendiamo un velo pietoso su tutti i problemi che agitano la questione in questo momento nel nostro paese, no? Ecco che nel momento in cui perde un pezzo centrale di identità, vede franare tutta l'identità. La sua coetanea, invece, ha un'ascesa molto più lenta e molto più modesta che lo porta a un lavoro non proprio mega dirigenziale. In compenso, la sua discesa è molto lenta. Vediamo questa signora che dal vertice più basso di quello del maschio scende cambiando ad ogni gradino, cappellino e vestito e conservando una sua dignità e non crollando. Come mai? Tante volte si dice, penso a alcune vecchie vignette femministe degli anni 60-70, quando l'insegnante, in modo particolare, ma direi anche molte altre categorie di donne che lavorano, è rappresentata come una specie di Dea Kali, con 100 braccia, 100 gambe, una per tenere a bada i bambini, una per spignattare, una per correggere i compiti, eccetera. Cioè, una persona che è abituata a accumulare più identità può darsi che soccomba sotto il peso di troppi tratti di identità, ma può darsi che se ne cola uno, compensi con un altro. Ecco il discorso del ricco povero, cioè un'identità con più tratti. Noi abbiamo tutti i vari tratti di identità, ma possiamo censurarne o, diciamo così, ridurne alcune, no? Non essere abbastanza autocoscienti sul genere o sul fatto di essere specie umana o su quindi problemi di tipo ecologico o sul fatto di essere veneziano, milanese, italiano, europeo, mediterraneo, perché anche Venezia si affaccia sul Mediterraneo, piuttosto che cittadino del mondo. Tanti tratti di identità. Il concetto di ricapitolazione di identità vuol dire in determinati momenti quale tratto di identità mettiamo al primo posto. E vi faccio due esempi. Uno è preso dal mondo della scuola. Scuola elementare milanese, protagonisti, ragazzo egiziano, bambino egiziano di 8 anni, che ha un nome, X, e la sua maestra, maestra peraltro democratica e progressista. In quel momento ognuno dei due fa dell'identità del bambino una ricapitolazione diversa. Cioè gerarchizza i tratti di identità in maniera diversa. Per il bambino lui in primo luogo ha un nome, sono io, questa è la prima cosa. Secondo luogo, 8 anni. Terzo luogo, sono un allievo della scuola elementare, quarto luogo sono egiziano. In un altro momento della vita magari avrei messo l'egiziano al primo posto, ma in quel momento pensiamo allo sforzo di integrazione, sono dinamiche abbastanza, non tutti i bambini reagiscono così ovviamente, ma questo è uno dei casi possibili. E questo è il caso reale perché è una storia vera. L'insegnante in quel momento faceva una ricapitolazione di identità diametralmente opposta. È un egiziano, le voleva, per favorire l'integrazione, presentarlo come il rappresentante della cultura egiziana, che è un compito che schiaccerebbe anche un adulto egiziano, a maggior ragione un bambino di 8 anni. Secondo luogo, voleva che non perdesse la sua identità culturale di origine. L'intenzione era buona, sappiamo che delle volte l'inferno è lastricato di buone intenzioni. Secondo luogo, sei un allievo della scuola elementare. In terzo luogo, hai 8 anni. In quarto luogo, ti chiami XY. Esattamente, questo è quello che si chiama un classico incidente interculturale, che non è quando due persone di cultura diversa si prendono a cazzottoni, ma quando, anche con la migliore delle intenzioni, per ignoranza, per non sapersi mettere bene ognuno nei panni dell'altro, ognuno interpreta in base, è normale, è umano, sono errori che facciamo. Io credo che la via rispetto ai cazzottoni migliore sia l'umorismo in questi casi, no? Cioè nel senso che ogni cosa è un po' diversa da quello che sembra, no? E quindi bisogna essere un pochino più pazienti e lavorare sugli incidenti interculturali. Sono famosi incidenti interculturali come la studentessa giapponese che va a studiare negli Stati Uniti. All'inizio trova gli americani terribilmente invadenti, intrusivi, pacche sulla spalla, violazione della privacy, poco formalisti. Poi finisce la borsa di studio, torna in Giappone e comincia a trovare insopportabilmente formalisti e cerimoniosi giapponesi. Questo è un classico esempio di incidente di andata e ritorno, incidente culturale di andata e ritorno. Chi di solito viaggia, io lavoro nel settore, diciamo così, chiamiamolo così, nell'attività di educazione interculturale, quindi scambi interculturali all'estero. Quando degli insegnanti o anche dei ragazzi tornano da un viaggio di istruzione all'estero, dicendo, questo è tipico degli insegnanti, non hanno litigato, non si sono accoltellati, alle volte io mi immagino che i ragazzi delle due diverse nazionalità si siano trovati al Burghi a mangiare un Burghi. Cioè è facile se uno trova il terreno d'intesa sul terreno dell'omologazione, però è rimasto al di qua del problema, non ha avuto incidenti interculturali perché non ha scambiato molto. Se scambi molto, ti arricchisci molto, ma ogni tanto hai qualche frizione, hai qualche differenza e la differenza alle volte è splendida, alle volte invece ti mette in crisi. Ecco perché io penso che un viaggio porta sempre con sé dei momenti di crisi. Nessuno torna più se l'esperienza è reale come era prima e delle volte insieme a tanti elementi positivi può portare con sé un elemento di insofferenza. Io ho insegnato per anni in una scuola serale, i lavoratori e studenti erano dei diversi, perché nella fabbrica erano considerati come dei traditori che non volevano più restare operai, volevano salire nella scala sociale, erano degli studenti, quindi erano degli intellettuali, mentre prima facevano lavoro materiale. Nella scuola erano visti come degli operaiacci, no? Dei lavoratori manuali che non avevano cultura e loro non erano più né carne né pesce. Se uno elabora, poi riesce a tirar fuori dai due elementi e fare in qualche modo un adattamento, una fusione culturale, se non riesce a elaborare può rimanere vittima dell'incertezza, ecco, o così dell'oscillazione. Ecco perché mi sembra molto importante, ecco, l'altro esempio potrebbe essere, se io lavoro nel settore della formazione degli insegnanti, se in un corso d'aggiornamento con una platea di insegnanti, posso aspettarmi che all'inizio la ricapitolazione di identità prevalente degli insegnanti sia l'identità di mestiere, siamo a un corso aggiornamento anche per insegnare. Molte coppie si sono formate disfatte durante i corsi abilitanti, che vuol dire che una persona non cessa di essere un maschio o una femmina, di andare magari ai corsi d'aggiornamento anche perché socializzare, no? Però posso aspettarmi che nei casi prevalenti l'identità preponderante sia quella di mestiere. Se però, mentre il relatore parla, dà un giudizio di tipo sessista, ecco che allora nella scala dei tratti di identità delle persone, mettiamo delle donne, ma spero non solo loro, quello che era un tratto di identità messo in terza posizione in It Parade, l'identità di genere e sesso, torna in prima posizione. L'incidente sessista porta una persona a dire, eh no, ma tu mi hai offeso nel mio essere donna. E allora ti rispondo da donna, che vuol dire che se prima al primo posto avevi sono un insegnante, adesso è e potrebbe essere sono veneziano, sono italiano, sono europeo, sono mediterraneo, sono cittadino del mondo. L'offesa o la trascurare, insomma, no? Il non rappresentare in maniera compiuta. Ecco, questo è un esempio per dire, quando noi parliamo di identità rigide, identità non mi piace flessibili, diciamo elastiche, no, più dinamiche, vuol dire che una persona rigida è una che ha sempre la stessa ricapitolazione di identità, avrà sempre il lavoro al primo posto, non esiste quasi, ma qualcuno, ognuno di noi conosce qualcuno che si avvicina a questi identikit, no? Il lavoro sempre al primo posto, la famiglia sempre al primo posto, il tempo libero sempre al primo posto, non lo so, l'idea fissa sempre al primo posto, tutte cose magari lodevoli, utili, no? In realtà una persona elastica dice, vediamo qual è la situazione. Che cosa è cambiato tra un momento e l'altro di quel corso d'aggiornamento? Che le frasi nuove dette dal relatore hanno determinato un tema nuovo, una situazione nuova. E anche lì è un problema di adattamento, di dire cambi la hit parade. È cambiato il contesto comunicativo relazionale, non mantieni più lo schema di prima. Dice no, io sono qui come insegnante, quindi anche se hanno detto delle cose razziste non mi riguarda. Sarebbe un po' strano, tra l'altro. No? O delle cose sessiste non mi riguarda. Sarebbe un po' strano. Però, ecco. È successa una cosa nella vita privata, non mi riguarda, ma sono sempre io. Quindi credo che questo sia proprio, aggiungo semplicemente esempi perché diciamo, la logica vi è già stata spiegata. Insomma. Ecco che allora rispetto a quel multietnico, io sarei tentato, non cambia di molto se lo sostituiamo con multiculturale, ma convenzione in termini, proporrei una cosa che chiamo il passaggio dal multiculturale all'interculturale. Un po' come si dice, passaggio dal multilinguistico all'interlingua, se non altro, ma sicuramente come si dice del passaggio dal, per esempio, dal multidisciplinare, una serie di materie accostate, all'interdisciplinare. La convergenza di più punti di vista su un tema di per sé interdisciplinare che ha bisogno delle differenze e della globalità e della convergenza per essere messo a fuoco. Faccio questo esempio molto, molto rapido per dire... Abbiamo fatto, potremmo moltiplicare gli esempi per mostrare come ogni cultura, come è stato detto molto bene prima, ogni società, ogni identità personale è multiculturale. Il primo problema è prenderne atto, no? Prendere atto dei reali tratti multiculturali che abbiamo e poi provare a elaborarli più nel senso del dialogo o della gestione, il meno violenta possibile, del conflitto, che nel senso solo del conflitto scatenato o della negazione dell'altro, no? Il che vuol dire, qualcuno l'aveva chiamata, Alain Pichon, Letizia Caronia, un'antropologia reciproca, gli uni visti dagli altri e gli altri visti dagli uni. Ma allora, e qui parlo da insegnante di storia, ma anche da insegnante di italiano, c'è da rivedere in maniera piuttosto radicale programmi, manuali e pratiche didattiche. Io faccio un esempio, in questo momento per esempio in una classe quarta ragionieri ho un ragazzo, il ragazzo è in Italia dalle elementari, però viene dalle Filippine. Si chiama Rogelio Trinidad, il cognome è di origine spagnola, è un cognome trinitario, Trinidad, qui dietro c'è anche la religione cattolica degli spagnoli. Se fosse, parlasse spagnolo, sarebbe Rogelio, lui si chiama Rogelio e non conosce l'origine del suo nome. Perché? Perché dopo la dominazione spagnola c'è stata la dominazione statunitense, quindi i filippini parlano molto di più l'inglese di quanto non parlino lo spagnolo. Nel libro di testo, per fortuna la geografia non ha la censura dei paesi, quindi un atlante, le Filippine compaiono, ma nel libro di testo di storia non c'è quasi riferimento, se non per spiegare che si chiamano Filippine perché Filippo, eccetera, eccetera, perché i re di Spagna, eccetera, eccetera. Ecco, al di là di questa cosa, poi le Filippine scompaiono. Allora, il problema è che l'accoglienza vuol dire utilizzare identità e differenza in maniera, io credo, realistica, come ricchezza e come problema. Se dicessi che sono solo ricchezza, nasconderei che delle volte ci sono dei conflitti. Se dicessi che sono solo problema, li vedrei soltanto come un vuoto a perdere, una persona a portare il tuo livello paternalisticamente. No, sono una ricchezza reale, molte volte con un aspetto potenziale che non viene valorizzato, può costituire problema se uno non ha delle strategie per affrontarlo. Allora diventa un problema anche, può diventare un problema pesante, non per tutte e due le parti, più spesso per gli immigrati che arrivano, che per gli autoctoni, qualche volta può succedere anche il contrario. Questo vuol dire che vanno un po' riviste le cose che si chiamano i canoni. Io vi faccio un esempio pratico, il mio tentativo come insegnante è quello di ridurre, anche solo di un milionesimo, il tasso di etnocentrismo, il tasso di sessocentrismo e il tasso di sociocentrismo dei programmi e dei manuali e delle pratiche didattiche di insegnanti italiani e storia. Di sessocentrismo, perché anche questa è una differenza, perché per esempio nel canone, nell'Olimpo degli scrittori italiani che si portano tranquillamente gli esami, le scrittrici fino a poco tempo fa non c'erano. Grandi scrittrici del Novecento non esistono. Il mio programma va da compiuta donzella fino alle scrittrici recenti, delle trentenni. Cioè, esistono, uno può dire, ci sono ovviamente, c'è letteratura, anche qui uscire dall'Italia può essere utile, Indubbiamente la letteratura italiana parte con una Compiuta Donzella di cui qualche critico ha perfino messo in dubbio l'identità, dicendo no, forse è un maschio che ha questo pseudonimo, ci restano pochi sonetti, no? E però la letteratura giapponese inizia con la Murasaki, che è il loro Dante Alighieri, è uno dei più grandi scrittori della letteratura giapponese, no? E inizia presto con questi personaggi. Allora, ho fatto un esempio diverso dall'etnico, per l'identità di genere, ma il discorso è, per esempio, come mai esiste, tanto per fare un esempio, ci lamentiamo spesso che l'italiano è una lingua poco parlata nel mondo, e poi esiste un'area della italofonia che comprende gli italiani immigrati in Australia, in Nuova Zelanda, in Canada, negli Stati Uniti, sono gli ticinesi come Orelli, e gli scrittori di lingua italiana, non di nazionalità italiana, non compaiono in quasi nessun manuale di letteratura italiana, mentre sono diventati dei classici per gli studenti statunitensi che si leggono alcuni autori italoamericani o per quelli australiani. Ecco, questo è un esempio anche abbastanza clamoroso di dire, noi diciamo la lingua italiana non può competere, non ha una diffusione pari a quelle, non so, dell'inglese, ma neanche dello spagnolo, per non parlare del cinese e dell'arabo, ecco, però poi abbiamo un'area di italofonia che è molto più ampia, come sapete in altri paesi ormai i premi Nobel sono a francofoni e anglofoni che non sono nati in Francia o che sono nati fuori d'Europa. E anche noi abbiamo scrittori notevoli. Allora, l'idea è la presa d'atto del carattere multiculturale della nostra società, della nostra identità personale, è soltanto il trampolino, il punto di partenza realistico per provare a aprire il dialogo. Franco Cassano l'ha chiamato con un termine molto bello, è una serie di approssimazioni all'altro, li chiama esercizi di approssimazione, dove potete leggere il prossimo nei due significati, in quello laico e fisico, ridurre le distanze. All'inizio le distanze sembrano maggiori di quanto non siano, sono maggiori di quanto potrebbero essere, e poi conoscendosi le distanze si riducono. Può anche essere l'idea del farsi prossimo religiosa, che è un altro discorso, anche quello non mi dispiace, no? Ecco, tutti e due gli elementi. Credo che allora il dialogo dovrebbe essere andiamo oltre gli steccati e le barriere. Io vi faccio un esempio che è piuttosto significativo. Programmi Moratti, riforma della scuola. Scuola elementare, si parla di dimensione locale, dimensione regionale in qualche caso, dimensione nazionale, dimensione europea. È cassata la dimensione mondiale, è scomparsa. Allora, a Milano, tanto per fare due esempi, nella hit parade dei ristoranti etnici o regionali, i ristoranti cinesi hanno superato le trattorie toscane, che prima erano il top della classifica, 25 anni fa. La prima scuola milanese in cui il numero dei cinesi è superiore a quello degli italiani, la scuola elementare di Via Giusti, è di 17 anni fa, se non vado errato. Allora, la Chinatown milanese è nata intorno alla Prima Guerra Mondiale, ci sono da allora, non sono arrivati adesso, dopo il 73, no? Come gli albanesi di Giorgio Skanderbeg sono in 4 o 5 regioni italiane da 400. Allora, da un lato c'è anche un po' un'ignoranza. No? L'etimologia, l'onomastica, la toponomastica ci aiutano a scoprire tante radici longobarde piuttosto che arabe, francesi piuttosto che inglesi, anche della lingua italiana. Il discorso quindi è quello del dialogo fra le culture e aggiungo anche un'altra cosa molto importante. Per esempio il programma, non sto parlando male della riforma Moratti, non è il nostro tema, non sono qui per questo. Dicevo, ha tante cose, alcune anche interessanti, magari anche valide, alcune cose che mi preoccupano un po'. Perché far sparire la dimensione mondiale nella scuola elementare? Perché chiamare, per esempio, nel programma della scuola, io lo chiamo programma, ma hanno un nome più tecnico che adesso vi risparmio, piani personalizzati. Chiamare tutto ciò che segue l'arrivo di Cristoforo Colombo a Guanahani, nell'America Centrale, la scoperta dell'altro. E in tutto il resto del programma non si parla, non si usa mai, non dico il termine conquista. Quando è stato il quinto centenario del 1492 si parlava di aspetto scoperta e aspetto conquista, ma anche la conquista. Hanno tolto la parola colonia, non dico colonialismo, imperialismo, non si può dire colonia. Si parla di agricoltura ma non si cita mai l'industria. Si dice che c'è stata la caduta dei muri di Berlino ma non si usa il termine guerra fredda. quantomeno c'è un po' di confusione nella stesura del testo. Si propone una cosa molto interessante che viene chiamata educazione alla convivenza civile, che si compone di 6 sottoeducazioni, tutte prese singolarmente valide: l'educazione alla cittadinanza, l'educazione stradale, che dal mio punto di vista è semplicemente un sottocapitolo dell'educazione alla cittadinanza, non riesco a capire perché darle un nome diverso, anche se è importante prevenire le stragi del sabato sera, l'educazione all'ambiente, l'educazione alla salute, l'educazione all'alimentazione e l'educazione all'affettività. Le ultime 3 erano considerate ancora da ministeri precedenti come parte di un unico progetto sulla salute, stare bene con sé, con se stessi, con gli altri, in rapporto positivo con le istituzioni, eccetera. Mancano almeno 3 grandi educazioni nell'elenco: l'educazione interculturale, l'educazione alle pari opportunità. L'unico riferimento al sesso, lo dico perché, o al genere, come preferisco dire io, è, a un certo punto si dice gli alunni e le alunne, poi nota a piedi pagina, dove in poi diremo solo gli alunni per essere più sintetici, ma ci riferiamo sempre alunni e alunne. E l'altro passo è dentro un contenitore che si chiama educazione alla convivenza civile, c'è un cassetto che si chiama educazione all'affettività, c'è un sottocassetto che si chiama educazione alla sessualità, e lì ci sono le donne come sesso, cioè biologia, e non come cultura. Sappiamo che genere e sesso vuol dire le donne, come anche i maschi, sono un prodotto e della natura e della storia, non solo della natura e quindi anche della cultura, parlando di storia. Ecco, potrei aggiungere qualche altra cosa per dire le mie preoccupazioni sul fatto che per anni il Ministero ci ha inondato di circolari sull'educazione interculturale. Rileggete, qui si dice una cosa positiva che io condivido: rileggiamo tutte le materie di insegnamento alla luce dell'educazione alla convivenza civile. Ma se poi uno mi toglie la dimensione mondiale della storia, come farà la mia collega che insegna nella scuola elementare Via Giusti con i bambini cinesi? Gli dirà: parliamo solo dell'Italia, dell'Europa, delle vostre radici? No? Ecco, questa è la mia perplessità. Io credo che l'unico canone che dovremmo avere a scuola è il canone che chiamo formativo. Quali sono i bisogni di formazione storica, culturale dei ragazzi? Vediamo che cosa ci offre la letteratura, la filosofia, la storia, la geografia, tutte le discipline. Scegliamo delle cose. Il tema quindi che io vedo è quello della trasmissione della cultura, come trasmissione non della, ma delle eredità culturali, in cui sappiamo che quando uno sceglie un'eredità non può portare a casa tutto, deve scegliere. E all'interno di un'eredità si può scegliere meglio se si ha spirito critico, e la coppia principale mi sembra critico a critico, più che dire che cosa scegli. Non si può portare con sé tutto il peso dell'eredità, ma insomma, come dimostra la discussione anche sulla Costituzione europea, piuttosto che sul crocefisso, uno può dire: l'Europa ha tante radici. Allora, o le elenco tutte, o non elenco nessuna, o faccio un elenco, comincio a dire quelle più famose, poi metto un eccetera per dire che almeno l'elenco non finisce lì. E poi, come diceva prima, ma quando dico l'eredità giudaico-cristiana, quale aspetto dell'ebraismo? Quando dico cristianesimo, quali aspetti del cristianesimo? Se dico pensiero laico, quali aspetti del pensiero laico? Io credo che ci voglia più dialogo. Ci sono anche molte iniziative molto importanti, e più delle volte sono magari partite dal dialogo tra le 3 grandi religioni monoteistiche. Io vorrei un dialogo tra tutte le correnti di pensiero: pensiero magico, perché esiste, pensiero religioso e pensiero laico. Dico che esiste il pensiero magico perché molte persone dicono che la magia è una cosa della preistoria. Poi però cosa succede? Come mai se una persona che lavora al computer si vede sparire un programma sotto gli occhi, dopo aver sperimentato tutte le strategie razionali del pensiero laico e quelle pragmatiche, chiamare l'amico che ne sa di più, dopo aver inutilmente consultato il manuale della giovane marmotta, cioè la guida in linea che non funziona quasi mai, a quel punto ricorre a una vecchia pratica magica: spegne il computer, fa la danza della pioggia e prova a vedere se funziona. Ditemi voi se la magia è totalmente tramontata, non siamo in presenza di un pensiero neomagico o di una degradazione del pensiero magico. Allora io credo che sarebbe molto importante, più che scannarsi per differenze laici, religiosi, religiosi di diverse religioni, io sono un agnostico dialogante, vengo da una famiglia cattolica non bigotta, ho ottimi rapporti con i miei familiari, io sono la persona laica della famiglia, ma ho anch'io una mia forma di religiosità, nelle difficili battaglie dell'esistenza mi sono sempre trovato fianco a fianco con persone delle religioni più diverse, del pensiero laico, avevamo valori comuni al di là poi delle confessioni, per dire così, o delle filosofie, delle concezioni del mondo più o meno rigide o elastiche. Ci siamo trovati insieme a fare lavoro interculturale tante volte. Credo che più che erigere degli steccati, mi piacerebbe sapere, una persona che si autodefinisce come, per esempio, cattolica, come ha risacralizzato eredità culturali provenienti dal pensiero laico? Come una persona che viene dal pensiero laico ha secolarizzato delle eredità culturali che vengono anche dalla religione? Forse sarebbe più interessante, ci scopriremo tutti più meticci di quanto pensiamo e gestiremo meglio i problemi. Eccolo qua, ringraziamo allora Alele Jabbar e Maurizio Gusso per le loro relazioni, sono le 7:20, prima di sfiondarci sulle tartine che come sempre Valeria e Cristina hanno gentilmente predisposto, abbiamo 10 minuti da dedicare, un quarto d'ora da dedicare al dibattito, le persone interessate possono rivolgere domande ai nostri relatori. Faccio solo un invito brevissimo. Penso che le cose che abbiamo detto col punto esclamativo, in realtà per tutte e due, credo, sono ipotesi di ricerca. Aspettavamo i vostri punti di domanda. Li abbiamo detti in maniera affermativa a mo' di tesi, più che di ipotesi, per essere più brevi. Però evviva il dissenso, insomma, cioè, evviva i dubbi, evviva le perplessità, no? Conoscere o a, come dire, a perdere di vista anche quelle che sono, perché non possiamo negarle, ci sono delle radici. È chiaro che la storia è storia di contaminazioni, di contatti, di incontri, scontri, di lingue, quello non scopriamo l'America, come si dice, di culture e così via, ma è anche storia di differenze, di stacchi, di formazioni di lingue, di popoli, non è tutto così, volemosi bene, tutto uguale o quasi, ci sono naturalmente, come dire, entità geografiche, lingue diverse, pur nella, come dire, nelle origini, indifferenziate, nel senso che appunto c'è il contatto tra la cultura, chiamiamola così, occidentale e la cultura orientale, medio orientale, orientale, ma poi c'è anche, direi, la differenziazione, un minimo di unità per cui l'Europa segue una via, l'Occidente segue una via, l'Oriente ne segue un'altra o il Medio Oriente ne segue un'altra. Ci sono radici comuni, ma ci sono poi differenziazioni, per cui l'Europa ha una radice cosiddetta giudaico-cristiana che non ha l'Oriente. Allora che cosa possiamo dire? Che cosa vogliamo dire quando stiamo attenti? Se noi vogliamo dire ma quale cristianesimo, quale giudaismo, quale questo, quale quell'altro, qui rischiamo di non arrivare a un punto di minimo di unità per cui io mi riconosco in un certo ambito, riconosco anche te, ma io devo sapere anche chi sono, devo avere anche un retroterra, devo avere delle radici per cui, su cui riconoscermi, con cui riconoscermi. Ho buttato lì, mi rendo conto di voi, il discorso non è facile, è complesso, e dirlo in due parole, ecco, così ho finito. Altre domande oppure... No, io ringrazio il collega, no? Credo. Perché ovviamente cercando di essere sintetici in mezz'ora magari non si può fare un discorso disteso con tutte le sfumature di distinguo che la complessità dei problemi richiede. Allora mi spiego meglio. Personalmente io mi sento a volte veneziano, a volte milanese, a volte italiano, o mi sento nello sottofondo tutto questo, però volta per volta metto in primo piano una cosa rispetto all'altra. E posso dire che però già quando io dico veneziano, scelgo all'interno della verità veneziana, perché non mi sento veneziano come quei veneziani che spollano o spennano i turisti. Non mi sento veneziano quando a Venezia, ancora adesso, per dire scarafaggi, si dice slavi, schiavi, come anche in qualche altra regione del Triveneto. Non mi sento veneziano, spero di non avere sangue dei veneziani che comunque trafficavano anche in schiavi e cose di questo genere, cioè dipende, nella verità, come detto, non sono omogenee. Io non difendo una posizione, se il collega è preoccupato nei confronti delle posizioni di relativismo assoluto, sono contro il relativismo assoluto, sono per quello che Pietro Rossi ha chiamato un relativismo relativo. Vuol dire, relativismo relativo vuol dire come metodo, vuol dire che uno ha dei valori, può crederci, uno testimonia dei valori, ma io come insegnante non devo inculcare la mia concezione del mondo nella testa dei ragazzi. Io devo creare degli spazi in cui nessun ragazzo, anche quelli che hanno le idee diametralmente opposte alle mie, finché non commettono un reato, possa esprimerle senza timore di essere censurato. Poi io contrapporrò con magari col comportamento altri modelli di valore, ma non li censuro sul piano dello scambio delle idee. Sono due cose abbastanza diverse, sono dei distinguo molto importanti. Quello che voglio dire, faccio un esempio proprio sul piano della politica scolastica. Non mi interessa il colore dello schieramento politico. C'è stata a un certo momento una commissione che ha proposto una riforma della scuola. C'era un gruppo di storia, il gruppo di storia era composto da 52 persone, queste 52 persone erano degli orientamenti ideologici, pedagogici, delle provenienze professionali le più disparate, c'erano i rappresentanti di associazioni dei genitori e c'erano i sindacati, c'erano insegnanti e c'erano dirigenti scolastici, c'erano docenti ricercatori universitari e c'erano ispettori. Delle più diverse, dei più diversi orientamenti, per capire non è che fossero, che so, più Ulivo che Polo, più Polo che Ulivo, e 51-1 hanno varato una proposta, su cui i media poi si sono scatenati. Si sono scatenati sulla proposta, i media, anche alcuni gruppi di pressione, in particolare per una cosa. Questa proposta diceva, come c'è se fate confronto in quasi tutti i programmi europei, ci vuole equilibrio tra l'identità locale, la dimensione locale dell'identità, dello spazio, eccetera, la dimensione regionale, regione subnazionale o sovranazionale, insomma la Lombardia piuttosto che il Mediterraneo, l'identità nazionale, l'identità europea, scala continentale non è solo un'espressione geografica, ovviamente l'Europa, e quella mondiale. Non dicevano che bisognava essere mondialisti, diceva di trovare un equilibrio tra queste diverse componenti. La parola mondiale, che era messa equilibratamente in questo documento, ha suscitato molte polemiche. C'è stato uno dei componenti della commissione, Luigi Caiani, che a un certo momento, perché stava dicendo, c'è una scala mondiale. Quando lavoriamo sulla scala mondiale, bisogna dire che non c'è popolo sulla Terra che non abbia una storia. Vi immaginate un manuale di geografia che dice: a noi non interessa nulla delle Filippine, la tolgo dalla carta geografica, dal pianisfero. C'è spazialmente, ma non ha solo uno spazio, ha anche una storia. Allora, nel momento in cui c'è storia mondiale, non vuol dire fare corsi monografici sulle Filippine, vuol dire lavorerò per grandi aree di civiltà, e anche lì sull'India avrà un suo spazio, perché ha una storia, lo devo dire una volta, non dedicherò magari, come qualcuno ha frainteso, tante ore all'emigrazione dei popoli Bantu quante dedicate alla Grecia e a Roma, però devo dire che anche i Bantu esistono, hanno una storia, come hanno una geografia e hanno uno spazio, se no, parafrasando Totò, potrebbero dire ci appelliamo alla Convenzione di Ginevra, perché sono, diciamo, negati i nostri diritti. Non veniva detto che la storia mondiale dovrebbe avere più peso di quella nazionale, diceva non escludere. La democrazia credo che abbia, almeno questa è la mia opinione, come uno dei grandi principi la tendenza a essere più inclusiva che esclusiva, o a escludere soltanto in base alla violazione della regola della democrazia, che è un altro discorso, no? Cioè, ma a includere più che escludere. Cioè, i limiti della democrazia credo che si superino con più democrazia, una democrazia più efficace. Non demagogica, per esempio, perché certo ci può essere una gran confusione tra democrazia e demagogia. Quindi voglio dire, se il collega dice attenzione a non scivolare in un relativismo assoluto, sono pienamente d'accordo. Se il collega dice attenzione al fatto che non si può fare cosmopolitismo astratto, cioè rivendicare un'identità prevalentemente mondiale e poi uno, no, per esempio, calpesta o dimentica o non conosce le tradizioni. Allora, io quando sono supplente nelle classi più difficili, entro in classe e chiedo ragazzi cosa pensate della storia, come mi trovate con questa materia, quasi sempre un coro di lamentele. E nessuno vuol far nulla, immaginatevi nei confronti di un supplente. Poi io comincio a chiedere come ti chiami? Allora salta fuori che Simona o Pietro non sanno più perché si chiamano Simona o Pietro a Milano. Allora gli spiego delle cose che magari una generazione fa tutti sapevano, guarda che i nomi di famiglia o vengono da calendari religiosi, calendari laici, perché ci sono anche i Libero e i Vladimiro che hanno un'altra origine, Vladimiro era anche magari liturgica, ma poi qualcun altro gli ha dato il nome per altri motivi magari, e poi ci sono i nomi dei nonni, i nomi dei compari o delle comari di San Giovanni, no? E poi ci sono i personaggi in del momento, per cui tante persone di quell'anno lì, via col vento, si sono chiamate Rossella, e via dicendo, no? Allora, queste cose i ragazzi non le sanno più, perché se una tale perdita, non sto parlando male dei ragazzi, e come dice in questi casi si dice salvo i presenti, no? Cioè, non sto dicendo i ragazzi in generale, dico una certa fetta, una certa parte, io non insegno in un liceo classico, non insegno neanche nel più abbandonato degli istituti professionali, insegno una cosa intermedia che è un suo tecnico commerciale. Alla fine, tutti questi ragazzi che all'inizio mi dicevano prof non ce ne frega nulla, in sostanza il messaggio è questo, mi inseguono nel corridoio dicendo prof perché mi chiamo così? Ecco il tema dell'identità, che in primo luogo è il tema dell'identità personale. C'è un bel libro che si chiama Chiamatemi Ali di Mohamed Bouchan, questo signore si chiamava Mohamed, è venuto in Italia quando era studente universitario, al terzo storpiamento del nome, Mohamed non riuscivano a pronunciarlo, ha detto chiamatemi Ali. E il libro si chiama Chiamatemi Ali. Quanti ragazzi devono cambiare nome e identità come se fosse una buccia? E l'identità è profonda, e il nome è la prima cosa cui io mi autodefinisco al telefono e mi chiamo Maurizio Gusso, pronto? Qui parla Maurizio Gusso. La storia dei nomi, infatti. Ecco, vabbè, era questo per dire che recepisco la perplessità se si trattasse di un mondialismo esasperato che nega valore e significato alle altre identità. Io parlo invece di tratti di identità dove, francamente, la domanda importante sarebbe questa. Quali sono, uno può rispondermi anche tutta la vita, se no qualcun altro potrebbe dire, quali sono le parti, i momenti in cui in cima alla hit parade si sente veneziano, lombardo-veneto, italiano, europeo, mediterraneo, cittadino del mondo, specie umana. E credo che, almeno per quanto riguarda, io vi dico, io non cesso di sentirmi veneziano, non cesso di sentirmi lombardo-veneto, però in certi momenti mi sento in primo luogo una cosa e in altri momenti mi sento in primo luogo un'altra. Dipende molto anche dal contesto relazionale e comunicativo in cui mi trovo in quel momento. Quindi non è un relativismo assoluto, è un relativismo relativo. Vuol dire, ognuno di noi ha delle concezioni del mondo. sarebbe meglio se non fossero troppo rigide, questa è la mia idea, cioè una concezione del mondo rigida è quella per cui se c'è un elemento di realtà che te la contraddice, tu puoi rispondere in tre modi, puoi fare come si dice, probabilmente qui stiamo denigrando gli struzzi, ma che gli struzzi facciano, cioè metto la testa sulla sabbia e faccio finta di non vedere. Oppure posso sofisticamente, come i sofisti greci, dire no, con un po' di dialettica, trasformare il rompicapo nella classica eccezione che, come noto, conferma tutte le regole. Terza possibilità, posso interrogarmi sulla mia concezione del mondo e vedere se quel pezzettino lì forse non è troppo rigida, non vale la pena di imparare anche da quello che è successo. Questa è la mia personale opinione. Non ci riesco sempre, è un ideale regolativo. Probabilmente, ecco, sono d'accordo col collega, non sono cose senza limiti, c'è un problema di sostenibilità. Quindi c'è una soglia minima e una soglia massima. Io credo che se scendiamo sotto una soglia minima di complessità, le soluzioni ipersemplicistiche non risolvono i problemi. Se saliamo troppo in là nella complessità, la problematicità, la complessità, la problematicità sono una specie di testa di medusa che, come noto, no? pietrificava gli incauti che la guardavano senza riparo. In mezzo tra questi due estremi c'è uno spazio enorme. Dialogo però per me non vuol dire volemose bene, ha fatto bene il collega a prendere distanze da questo modello, per me vuol dire un'altra cosa, vuol dire educazione alla gestione dei conflitti. Vuol dire rendersi conto che ci sono identità differenze, noi possiamo cercare di agire il conflitto o di subirlo nella maniera più distruttiva o autodistruttiva o cercare quantomeno di ridurre il danno. Cercare, se uno non crede nella non violenza assoluta, perlomeno cercare le soluzioni meno violente, compatibili con i tempi, con i contesti. Credo che questo, non so, potrebbe essere un discorso, quindi non sto facendo rosea e non la vedo neanche nera. Il mondo è fatto di tanti colori, tra rosa e nero. Ecco, qualche volta magari sarà anche rosa, qualche volta sarà anche nero, ma molte volte semplicemente di una miriade di altri colori. Quindi volentieri, continuiamo il dibattito.